Welcome, Federico. The system is ready to jack in. Ed eccoci ritrovati di nuovo a Medium, il podcast su Netrunner. Questa puntata, al contrario delle puntate precedenti che sono state un po', come dire, atipiche rispetto al format, questa puntata la facciamo assolutamente super tipica. Quindi passiamo subito alle rubriche del giorno. The Personal Workshop. Quest'oggi parliamo di un archetipo un po' particolare che è l'unica fonte di novità che ho visto recentemente nel fronte dei runner. Questo perché al World Champion della Fantasy Flight abbiamo visto solamente Andromeda e Catman. Quindi chiaramente dal punto di vista dei runner, perlomeno le prime scelte sono assolutamente stagnanti da un po' di tempo. Quindi andiamo a vedere un mazzo Wizard che include due carte fondamentali per generare una mini combo, che sono state molto interessanti, tant'è che infatti il vincitore del torneo che ho fatto in Germania ad Essen portava proprio questo archetipo, spiazzando tutti, perché chiaramente il metagame è un pochettino orientato verso Shaper e Criminal, sicuramente non orientato verso Anarch, e se anche fosse orientato verso Anarch sarebbe orientato verso i virus di Noise, non sicuramente verso Wizard. Quindi l'archetipo funziona così: è un mazzo Wizard, diciamo, credit denial in generale, quindi cerca di toglierti la possibilità di avere soldi. Poi però gioca due carte interessanti che sono Mana Leak Reversal e John Masanori. Queste due carte insieme riescono a creare una combinazione per cui io spendo il mio turno facendo run da qualche parte, mi prendo la tag perché non completo la run. Una volta che ho la tag uso due volte Data Leak Reversal per andarti a bruciare due carte e poi con due crediti mi levo la tag. Questa cosa, fatta in maniera ricorrente nell'arco di tutta la partita, genera che innanzitutto il mio mazzo corporazione sarà privato di molta roba che magari poteva essere fondamentale per poter appunto o proteggere gli archivi oppure fare economia. Quindi interessante anche il fatto proprio che ti toglie delle carte dal mazzo. In secondo luogo, chiaramente ti ci mette dentro le agende. Detto questo, chiaramente se si sa contro chi si sta combattendo, probabilmente si andrà a mettere il nostro miglior ice sugli archivi, rendendo le incursioni sugli archivi un po' più difficili. Però ecco, può essere un mazzo che ti prende di sorpresa. È sicuramente un mazzo molto divertente, in primis perché è fuori dall'archetipo che stiamo giocando da un po' di tempo dei mazzi a grande ricorsione di programmi come Catman, oppure a tutto eventi, tutto rush iniziale e poi full rig in poco tempo con gli account siphon di Andromeda. Quindi ecco, andate a provare questo mazzo, magari l'ho posto nell'articolo stesso del podcast, così ve lo andate a guardare e mi dite un po' come vi siete trovati. Passiamo all'altra rubrica. The card of the day. Non si incontra tutti i giorni una carta così particolare. Parliamo di Scheherazade. Praticamente è un programma Anarch, costa 0, impegna 0 di memoria e ha 1 di influenza. Quindi diciamo che è uno dei programmi più semplici in assoluto da poter giocare in quasi tutti i mazzi, visto che ha 1 di influenza. Il suo effetto è molto particolare, ovvero non fa nulla di suo, ma quando installi altri programmi puoi installarli su Scheherazade, non risparmi nessuna forma di unità di memoria, ma se li installi su Scheherazade rendi il programma un po' più, come dire, un po' più debole, un po' più soggetto a poter essere trashato con facilità. Dopo vi spiego perché. E lo installi lì, però ottieni un soldo. Quindi attenzione, Questo è un programma pensato assolutamente per i Caissa, cioè installo il Caissa, lo metto su Sherazade, poi spendo un click, oppure con l'effetto della console automaticamente questo Caissa mi schizza su un ICE della corporazione, quindi un ICE avversario, quindi a tutti gli effetti generando automaticamente un soldo. Con i Caissa dice semplicemente, con i Caissa e la console giù dice semplicemente tutte le volte che installi un Caissa ottieni un soldo. Per il resto può essere molto interessante, per esempio per Noise che installa molti programmi, ne trascia molti, quindi combinazioni Noise ESOP, quindi dove l'economia è legata a ESOP e a Noise, può essere molto interessante. È una di quelle carte che vanno tenute d'occhio e che vanno provate, perché finché non le si prova non si capisce quanto possono essere interessanti. Attenzione, perché questi programmi sono più deboli? Perché nel momento in cui io li ospito, cioè li faccio ospitare da Sherazade, Sherazade nel momento in cui viene trashata distrugge tutti i programmi che ospitava, quindi chiaramente questi programmi sono interessanti, cioè questi deck vanno fatti apposta su affinché si installino programmi che si possono eventualmente trashare, penso, che ne so, a Imp, penso a un eventuale Data Sucker, che non è poi una fine del mondo se ti muore insieme magari, ecco. Nel momento in cui io lo metterei sicuramente su Gin, cioè installo Gin, su Gin ci metto Sherazade che tanto lo installo gratis, non perdo nemmeno i token, e poi ci metto sopra i programmi, tanto comunque i programmi che avrei messo su Gin li avrei messi in pericolo lo stesso. Quindi queste sono, diciamo, le considerazioni che voglio fare su questa carta. Poi chiaramente ce ne sarebbero tante altre da poter fare, ma mi riservo veramente di andarla a provare invece che fare semplicemente della speculazione. Dai, guardiamo invece le carte del futuro, la prossima rubrica. Quality time. Fresh new cards for your decks. Non ci sono tantissime carte spoilerate per quanto riguarda il runner. Ho deciso quindi di andare a guardare molto nel futuro. Si tratta del data pack di Fear and Loathing e la carta è Blackguard. Allora, Blackguard costa 11, è un hardware, per la precisione una console, quindi compete con Desperado. Tutti gli altri ascoltatori faranno non ce la farà mai a competere, però effettivamente ha un effetto un po' particolare, che mi piacerebbe un attimo commentare insieme a voi per capire se potrebbe eventualmente insinuarsi in qualche archetipo di mazzo criminal. Blackguard costa 11 da buttare giù, 2 di influenza, ti dà 2 memorie in più e poi fa un effetto un po' particolare. Allora, tutte le volte che esponi una carta, dico esponi ma nel senso expose, la corporazione la deve rezzare pagando il suo costo se ne è in grado. Quindi non è come Forged Activation Order che la corporazione sceglie se trashare oppure no, ma se io ti faccio un infiltration su un ICE che tu non volevi rezzare, ti costringo obbligatoriamente, se i soldi ce li hai, a rezzarlo. Immaginate sta cosa su un Archer, oppure su cose come l'Aisone che ti sei messo nell'archivio perché sai che in futuro poi lo dovrai rezzare, ma io te lo faccio rezzare subito, oppure vedo che non rezzi un Ice perché vuoi andare a scorare un'agenda e non vuoi che l'Ice che ti sto rezzando, che ne so, su R&D, ti abbassi talmente tanto di crediti che poi però non hai i soldi per poter rezzare gli ICE che proteggono il serverone dove hai messo l'agenda. Usando questo stratagemma ti obbligo a spendere soldi da una parte affinché io possa andare a rannare da un'altra parte dove ancora non hai rezzato gli ICE. A quale costo? In primis un costo enorme per quanto riguarda questo hardware, quindi questa console costa 11, secondo me è veramente spropositato, seppure ti dà 2 due di memoria in più. E l'altro costo è il fatto che a tutti gli effetti poi io mi ritrovo un ice rezzato, quindi da qualche parte sto sacrificando fondamentalmente un server. Dico vabbè, su questo server ti ho fatto rezzare magari, che ne so, tanti ice, e però poi dopo ti ritrovi a essere povero. Quindi è una forma di console che consente il money denial nei confronti della corp. È anche vero che il credit denial se lo fa inizialmente lui, perché 11 costa tanto. Va bene, abbiamo parlato anche di Blackguard, andiamo a vedere come sta messo il meta. Vai, prossima rubrica. Sure gamble, the meta unveiled. Ricordate il proverbio niente nuove buone nuove? Beh, direi che per quanto riguarda il meta si applica abbondantemente questo proverbio. Cioè, non abbiamo visto particolari cambiamenti da parte del meta recentemente, e per recentemente intendo da Opening Move a Second Thoughts, oppure da Creation and Control a Second Thoughts. Fondamentalmente gli archetipi che stiamo vedendo sono sempre quelli, ovvero Catman con la con i Parasite, i Data Sucker, Atman e tutti gli effetti di ricorsione, come abbiamo già detto prima, e anche Andromeda con i soliti account siphon nella versione magari con le risorse, oppure nella versione Tagme. Onestamente la versione Tagme sta un po' andando in decadenza in virtù del fatto che esiste Hostage, questo double event che ti permette di andarti a prendere delle risorse e installartele istantaneamente, che effettivamente permette ad Andromeda di poter avere uno pair di molte risorse che gli sarebbero costate influenza, tipo Professional Contact, e andarsele a cercare nel mazzo. Quindi dai, questa la risolviamo molto velocemente. La rubrica ti dice semplicemente: sereno senza nuvole, aspettiamo i nuovi data pack per vedere se qualcosa all'orizzonte si modifica. Per oggi è veramente tutto, vi ringrazio per l'ascolto, spero di essere stato in un tempo di 24-25 minuti capace di poter di non annoiarvi e di tenervi sempre con il livello di attenzione elevato. Un saluto in particolare a Beast, che si è rivelato la persona che appena io pubblico un nuovo podcast, una nuova puntata, se l'ascolta praticamente nei 20 minuti subito dopo la pubblicazione e mi dà subito dei feedback. Quindi un grande ringraziamento a lui, che a quanto pare ha modo di ascoltarsi subito le puntate che faccio. Se qualcosa ho detto che è una boiata pazzesca, fatemelo sapere nel sito netrunner.it, mi raccomando, siate attivi sulla pagina Facebook. Volendo, se vi piace di più questo social, siate attivi su Google Plus, scaricatevi le applicazioni che vi consentono di inserire il feed all'interno del vostro cellulare, così in automatico il cellulare vi scarica le nuove puntate e ve le ascoltate magari mentre siete in macchina piuttosto che mentre andate a correre. Per oggi è tutto, vi saluto, un ciao da Federico, alla prossima. Maintenance mode turned on. Jack out.